Radio 24 Reportage. Le amministrative di Radio 24. Torino. Un modello tra crisi e rilancio. Di Paolo Piacenza. La città che il New York Times ha scelto come una delle destinazioni del 2016, che vanta un record di 4 milioni di turisti nel 2015, che è seconda assoluta in Europa dopo Amsterdam e davanti a Parigi nella classifica delle capitali europee dell'innovazione, continua a portare avanti un progetto di trasformazione che per molti aspetti è un modello non solo nel bel paese. Poi però gli umori che si raccolgono nelle strade dei quartieri popolari raccontano un'altra storia. Il 13 ci porta dal centro a Corso Svizzera, quartiere Campidoglio, ex zona operaia oggi invecchiata e in lento cambiamento. Qui, tra i banchi del mercato, se si chiede alle persone di politica cittadina, elezioni, futuro, in tanti preferiscono non rispondere. E chi parla è critico. Ancora non ho delle idee molto chiare, ma non certo il sindaco che c'è. Sì, sono di Torino, vado a votare. Io non so se ci sarà astensione, è che questa giunta ha fatto quello che poteva, con i soldi che ha trovato. Torino è migliorata tantissimo in questi anni, però si è fatto ancora poco a livello di sicurezza delle strade. E di non votare la tentazione, però poi si fa un effetto contrario a quello che dovremmo fare. Una prima spiegazione è legata alla crisi, che a Torino ha colpito duramente, soprattutto alcune fasce di popolazione. Nel 2015 la disoccupazione nell'area metropolitana cala, ma resta alta, in linea con quella nazionale, all'11,9%, mentre quella giovanile è al 44,9%, sopra la media nazionale. I poveri, dice Caritas Torino, sono raddoppiati dal 2007 a oggi, 100.000, circa il 15% della popolazione totale. Per capire meglio, incontro Nanni Tosco, già segretario CISL di Torino, oggi presidente dell'Ufficio Pio, il braccio della Compagnia di San Paolo che dal 1500 si occupa del sostegno alle fasce deboli. La povertà è aumentata quantitativamente, è aumentata come tipologia di persone che vanno in povertà, è aumentato il rischio che in un periodo di questo tipo perdere il lavoro aumenta maggiormente che non in altre epoche il rischio di rimanere senza lavoro a lungo e quindi scivolare verso la povertà. Queste cose in questo ciclo che è durato a lungo, che è stato ampio, profondo, molto selettivo, hanno smazzato, hanno creato un bacino di povertà. Bisogna mettersi in testa che con la povertà noi avremo a che fare per un periodo che non è risucchiabile, marginabile, anche con un ciclo economico positivo. Intanto, in questi anni il Comune ha dovuto fare i conti con minori trasferimenti e anche con un debito di 3,4 miliardi da ridurre, ma senza tagliare il welfare. Ed è proprio quello che Piero Fassino rivendica. Quel debito l'abbiamo ridotto di 600 milioni di euro e oggi il debito della città è al livello del 2003. Abbiamo garantito ai cittadini tutti i servizi fondamentali che i cittadini hanno avuto e continuano ad avere. Abbiamo continuato a investire. Fassino, 66 anni, sindaco uscente, porta avanti da oltre un mese una campagna elettorale vecchio stile. E dappertutto, non si ferma mai, incassa critiche e malumori. Lo incontro al circolo di Amicis di Corso Casale. Io faccio una campagna elettorale chiedendo un voto per il sindaco. E quindi la campagna elettorale io la sviluppo intorno a quel che abbiamo fatto e quel che intendiamo fare. E su questo riscontro grande interesse, come dire, un clima buono. Poi, naturalmente, bisogna sapere che però questo clima buono sul piano amministrativo sta dentro, diciamo, una fase nella quale sono tante le ragioni per cui un pezzo di elettorato può avere ragioni di diffidenza o di malessere. La crisi economica e sociale ha prodotto delle ferite. In chi ha perso il lavoro o vede che il figlio non ha futuro, eccetera, eccetera, è chiaro che c'è un atteggiamento che è più, diciamo, preoccupato da un lato e più distaccato, più lontano, quindi bisogna parlare con queste persone e avere delle proposte serie. Il sindaco enumera i risultati: la crescita di turismo e cultura, l'innovazione, il terzo piano strategico della città, la progettazione della linea 2 della metropolitana. Mette al centro del suo programma attrattività, sicurezza, lavoro. Scommettere sull'industria, l'industria più innovativa, più di avanguardia, quella che, diciamo, ha il valore aggiunto nel sapere, nella conoscenza, nella ricerca della tecnologia. Scommettere su tutte le funzioni di servizio e le funzioni terziarie, scommettere sulle opportunità di lavoro che possono venire dal riorganizzare una città continuando a trasformarla, perché vuol dire cantieri che si aprono, tecnologie che si applicano. Lavoro può derivare dal ripensare l'organizzazione sociale intorno ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, della qualità della vita. È una strategia che scommette sul massimo dell'innovazione in ogni campo, perché il massimo dell'innovazione in ogni campo è quella che può consentirti di creare lavoro. Nella città in cui il centro-sinistra governa da 23 anni, la partita di Palazzo Civico la giocano in 17. I nomi in rigoroso ordine di scheda elettorale sono Guglielmo Del Pero, Mario Cornelio Levi, Marco Rizzo, Roberto Usseglio, Alberto Morano, il sindaco uscente Fassino, Osvaldo Napoli, Lorenzo Varaldo, Vito Colucci, Roberto Rosso, Gianluca Nuccetti, Chiara Appendino, Marco Racca, Piercarlo Devoti, Anna Battista, Giorgia Iraudo e poi Roberto Salerno, che è riuscito a ottenere il via libera del TAR per il simbolo della fiamma del movimento sociale destra nazionale che lo sostiene. Stando ai sondaggi, la sfidante principale del sindaco è colei che è stata la sua spina nel fianco nei 5 anni di consiglio comunale. Chiara Appendino, 32 anni a giugno, del Movimento 5 Stelle. Figlia di un dirigente industriale, laurea in Bocconi, è sposata con Marco Lavatelli, titolare di una piccola impresa per cui lavora alla pianificazione e controllo di gestione dopo essersi licenziata dalla Juventus. A gennaio le è nata una bimba, Sara. Arriva in piazza Carignano spingendo la carrozzina. Poi affronta il gruppetto di sostenitori e giornalisti. Questa città è stupenda, ed è bello essere torinesi, ed è bello poter gioire e usufruire delle grandi bellezze che abbiamo sul nostro territorio. Chi non è fiero di questo? Però questa città, oltre ad essere conosciuta a livello internazionale per le bellezze che abbiamo, che insomma abbiamo la fortuna di avere, purtroppo è una città che sta diventando sempre più la città dei paradossi. Questa è una città dove, lo dice lo studio Rota, il divario sociale è sempre più in crescita. Noi abbiamo la responsabilità di ricucire questa città. Appendino indica le sfide per cambiare la città, ricucire le fratture fra ricchi e poveri, fra centro e periferia, rendere la città più vivibile, accrescere la sicurezza con nuclei specialistici dei vigili urbani e maggiori investimenti nelle periferie. E per creare lavoro, secondo Appendino, serve rilanciare la vocazione industriale di Torino. Dal giovane, che oggi tende comunque a diventare imprenditore di se stesso perché anche c'è più difficoltà a essere assunti, quindi deve avere il coraggio magari di iniziare con una start-up, all'imprenditore che ha già una storia alle spalle, che si sentano con appunto la città a fianco e tutta una serie di soggetti in cui si fa sistema e il comune può fare anche cabina di regia affinché ci siano le condizioni che queste imprese possano nascere e soprattutto possano continuare a sopravvivere sul nostro territorio. Lei si definisce olivettiana, parla soprattutto di una città da unire, usa parole come solidarietà, cooperazione, comunità, critica l'amministrazione uscente ma senza toni eccessivi. Si è creato quello che noi io ho definito un regime urbano sostanzialmente, per cui c'è comunque una classe dirigente abbastanza chiusa, con una età anche abbastanza avanzata, e quindi il tema è che all'inizio è giusto avere ovviamente un consolidamento attorno a un progetto che si vuole portare avanti, perché ci vuole stabilità, se no non riesce a portare avanti un progetto. Però dopo tutti questi anni, dal nostro punto di vista, c'è bisogno di una riapertura al merito, perché se no non si possono far innescare idee nuove, energie nuove. Anche Giorgia Iraudo, parlamentare di Sele, sindacalista Fion, va all'attacco, ma senza eccessi. La sua scommessa, così la definisce, nasce a sinistra della maggioranza attuale, ma anche raccogliendo il coinvolgimento di realtà non politiche. Lo incontro alle officine Corsare, Circolo Arci, vicino al nuovo campus Luigi Einaudi. A me non convincono due idee che sento forti in questa città. Una è quella del sindaco Fassino, che dice va tutto bene, non è successo niente, abbiamo attraversato la crisi meglio da altri. È come la vecchia zia che non vuole che gli tocchi i soprammobili, non si può muovere niente nel vecchio salotto. L'altra che non mi convince è quella di Chiara Appendino, dove tutto è andato male. Non è proprio così. Ci sono gli ultimi che devono ritornare a essere uguali agli altri e ci sono anche da valorizzare le tante opportunità che questa città ha dato, proponendogli una visione. Quindi io penso che, per esempio, serva a ridare una missione a questa città, e io penso che l'obiettivo sia quello di dire, per esempio, che Torino fra 10 anni deve vedere nel suo centro circolare solo auto elettriche. Bisogna riprendere il sogno di Andrea Pininfarina, che prima di altri ha pensato di produrre l'auto elettrica che si attacca alla spina, come ne cominciamo a vedere molte altre. Hai tolto truce. E il centrodestra? Sotto la Mole, un po' come a Roma, avanza in ordine sparso. I più accreditati dei sondaggi sono Alberto Morano, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e dalla lista che porta il suo nome, Osvaldo Napoli, Forza Italia e Civiche, e Roberto Rosso, UDC, Area Popolare e Civiche. Napoli, ex deputato sindaco di Valgioie, parla di tre priorità. La povertà, l'occupazione, la sicurezza, che forse sono le solite frasi, però poi è la realtà di Torino di questo momento. Una Torino certamente bella nella parte centrale, nulla da mettere in dubbio, ma non vi sono dubbi che nella parte periferica ha grandi carenze enormi che dobbiamo risolvere. Dall'altra parte, il notaio scelto da Matteo Salvini dice invece chiaro e tondo che la sua partita riguarda proprio il futuro assetto del centrodestra. Il primo punto essenziale in questa sfida è gettare le basi per un nuovo centrodestra per il futuro, perché a Torino centrodestra diviso così in quattro non serve niente. La presenza di una forte lista civica che faccia un bel risultato e diventi punto di riferimento e di aggregazione del centrodestra sarebbe un grandissimo risultato. Naturalmente Morano va anche all'attacco del centrosinistra e denuncia una gestione del potere a debito, il cui costo, dice, viene pagato dai cittadini. Ma sulle scelte da fare assume accenti moderati, lontani dal leader della Lega. Si combatte l'illegalità, che sia italiano o straniera, e si cerca di integrare gli stranieri che lavorano nel sistema italiano e nel sistema di questa città. Sono 153.000 stranieri, non sono solo più un problema di immigrazione, sono un problema sociale della città. E se poi lei pensa che i 153.000 tendenzialmente sono tutti sotto i 50 anni, lei deve immaginare Torino fra 10 anni. 153.000 avranno un'incidenza che sarà non il 18% della popolazione, ma il 28 o 30% della popolazione di Torino. E allora? Secondo molti la vera partita si giocherà al ballottaggio, che appare altamente probabile. Il gioco del voto contro potrebbe favorire Appendino? E quanto peserà la politica nazionale? Per Nanni Tosco il voto sarà deciso più dalla percezione che dai progetti. Il consenso ci sarà soprattutto su problemi o questioni di percezione immediata dei cittadini che votano, non su progetti. Ma la vera posta in gioco è un'altra e riguarda proprio la sfera del futuro a lungo termine. Il voto di Torino e di Milano è un voto di una nuova questione del nord attraverso l'elezione di due grandi aree metropolitane che tra di loro alla fine sono contigue. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.